prima che sia domani. Fermare il tempo adesso io, prima che sia domani. Perderti e ritrovarti ancora, che tutto fosse come te, averti nel mio tempo io, che fosse già domani. Vederti ritornare ancora, che tutto fosse come te, averti nel mio tempo io, che fosse già domani. Vederti ritornare ancora. Siamo tutti famosi, quindi non lo è nessuno. Come disse il giudice innocente, non lo è nessuno. Lo spettacolo ha qualcosa di satanico, meccanico, qualcosa che non c'era e adesso c'è. Nuovi stili di insonnia, parlava ad una donna che non la dava a me ma un'altra donna. Sta rima dici non l'accetto, fossi uno che vive non ci penseresti, penseresti al concetto. Prima scherzavo riguardo il vecchio testo, volevo stupirti era un pretesto. Tolgo te da pretesto, faccio presto, intendo la parola, questa parte la riascolterai, hai la mia parola. Qualcuno può dirmi non funziona, intendo l'invidia in tutto il mondo, come Nintendo. Sento voci dirmi scappa in posti lontani, prima che sia domani. La gente di parola, il gioco delle coppie, le facce doppie, allucinazioni o rivelazioni a ripetizione, come a 14 anni a scuola ripetizione. Io sentivo ma non capivo, come la tecno balli non capivo. La scienza dichiara che l'uomo invecchia appena pronuncia la parola adolescenza. Ma gli anni passano, dove il destino che ti cerca dice: tocca essere informati, stare al passo, altrimenti entrano in banca e ti cambiano la password. Rapina con scasso, fa rima con collasso, domandami pure, la risposta non lasso. Tutto è possibile, basta soltanto cambiare i piani, prima che sia domani. Sono l'esponente maggiore di questo genere musicale in Italia e rappresento un movimento che in Italia esiste da più di 20 anni, di gente che fa questa musica, di prodotti che escono regolarmente, di una scena musicale che vive completamente all'ombra. La domanda è: dimmi se credi nei politici? No! Dimmi se credi nei politici? No!